Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Quella che stiamo ascoltando non è semplicemente una bella canzone. Questo è un momento storico per l'umanità. È il 20 gennaio 1986 e ci troviamo nella Opera House del John Fitzgerald Kennedy Performing Arts Center di Washington. Le moltissime persone qui riunite, legate da un abbraccio virtuale a migliaia di altre persone in tutti gli Stati Uniti, stanno festeggiando una ricorrenza unica. Sono anni che aspettano questo momento. Per l'esattezza 18. 18 lunghi anni prima di poter festeggiare in maniera ufficiale un compleanno importantissimo. Sono passati 18 anni dal 4 aprile 1968, giorno in cui il reverendo Martin Luther King Jr. viene brutalmente assassinato, ponendo fine a una vita interamente dedicata alla lotta non violenta contro ogni forma di discriminazione razziale. È un giorno triste, carico di presagi negativi, di paura, di rabbia, ma anche un giorno in cui si decide che Martin Luther King non deve morire invano, che la sua opera deve andare avanti e che occorre ricordare quello che lui ha incominciato affinché qualcun altro possa proseguirlo. È nel giorno della sua morte che viene deciso di trasformare il suo compleanno in una festa nazionale. Ma la cosa non è affatto semplice. Il Congresso rifiuta sistematicamente le proposte che ogni anno vengono ripetute e bisogna aspettare il presidente Ronald Reagan, che nel 1983, dopo la votazione favorevole di Camera e Senato, firma finalmente l'istituzione della festa nazionale, il Martin Luther King Day. In 1968... Martin Luther King was gunned down by a brutal assassin. Nel 1968 Martin Luther King è stato ucciso da un assassino brutale. La sua vita è stata falciata all'età di soli 39 anni, ma quei 39 anni hanno cambiato l'America per sempre. La coscienza dell'America è stata toccata. Grazie a lui le persone hanno iniziato a trattarsi non come bianchi e neri, ma come americani. Ma cosa fa cambiare idea ai politici? L'istituzione di una festa nazionale non è qualcosa di così semplice, specialmente in un paese grande come gli Stati Uniti. Solo due uomini hanno una loro ricorrenza personale riconosciuta a livello nazionale, Cristoforo Colombo e George Washington. Ed è ovvio il perché. Eppure per il reverendo Martin Luther King si mobilita una quantità enorme di persone e vengono firmate petizioni in ogni stato. L'opinione pubblica è fortemente motivata perché c'è stato qualcuno che ha saputo smuovere le coscienze, che ha saputo toccare i cuori ed è riuscito a raccogliere oltre 6 milioni di firme che hanno finalmente convinto i politici americani. È stato uno sforzo immenso, sotto tutti i punti di vista, umano, di tempo, denaro, ma io non potevo fare altrimenti. Ho dovuto fare quello che veramente sentivo dentro di me. Abbiamo lavorato duramente per sensibilizzare tutta l'opinione pubblica e poi, beh certo, Happy Birthday ha fatto il resto. La voce che avete appena sentito è quella del protagonista dei Magnifici Destini di oggi, che scrive la canzone Happy Birthday a sostegno della causa per il Martin Luther King Day. Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo. Si tratta di uno dei cantanti afroamericani più famosi, creativi e pieni di talento che siano mai esistiti. Stevie Wonder. Mentre si trova sul palco della Opera House di Washington il 20 gennaio 1986, in occasione del primo anniversario del Martin Luther King Day, Stevie Wonder non può di certo vedere la moltitudine di folla che si assiepa intorno a lui perché è cieco dalla nascita, ma può sentirla, può gioire del risultato raggiunto. Con lui sul palco ci sono personalità del calibro di Quincy Jones, John Baez, Bob Dylan, Dionne Warwick, Whitney Houston. Berry Gordy, proprietario della Motown, la mitica casa discografica di Detroit, che vanta nella sua scuderia Diana Ross, Marvin Gaye, i Jackson 5 e lo stesso Stevie Wonder, ricorda quel momento incredibile. Quando fu istituita la festa del Martin Luther King Day, fummo tutti così orgogliosi di Stevie. All'inizio io non ero proprio convinto, non era un'operazione commerciale, ma poi questa cosa è diventata la più cara ai nostri cuori, meglio di qualsiasi altro disco che avremmo potuto fare, meglio di un sacco di soldi. Oggi ai Magnifici Destini vogliamo raccontarvi la storia del mitico Stevie Wonder. Vogliamo parlarvi degli incontri che hanno contribuito a renderlo il grandissimo personaggio che tutti conosciamo, con un'attenzione particolare non solo al suo valore come autore e interprete, ma anche alla sua umanità, alla sua capacità immensa di donare amore e gioia a tutti coloro che ascoltano le sue canzoni. Just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to grow. Cleveland Hardaway Morris è un bambino prodigio. Forse perché è cieco dalla nascita, forse per una sensibilità particolare ereditata da sua madre, forse per un dono del Signore, come ama dire lui. Avrà al massimo 3 o 4 anni quando inizia a suonare il pianoforte, il basso, le percussioni e soprattutto l'armonica. La mia prima armonica me la regalò un signore che conosceva la mia famiglia. Si chiamava Lode e andava sempre in giro a suonarla. Ogni volta che mi vedeva mi diceva: lo sai ragazzo, tu diventerai un altro Ray Charles. Fu lui a darmi la prima occasione per manifestare il mio talento a un picnic che avevo organizzato. Si esibiva con una piccola band. Prima mi fece suonare le percussioni e mi pagò anche $0.25. Poi suonai un po' l'armonica. Suonai una cosa che faceva più o meno così, Ha un dono, non c'è alcun dubbio. E tutti gli amici di famiglia lo sanno bene. C'è una specie di implicito passaparola fra coloro che frequentano la casa del piccolo Stevie a Detroit. E un giorno il racconto delle sue incredibili capacità musicali raggiunge alcuni produttori della mitica casa discografica Motown. Stevie non ha ancora 11 anni quando entra per la prima volta nella sua sede al 2648 West Grand Boulevard di Detroit. Esther Gordy, coproprietaria della Motown, ricorda benissimo quel preciso momento. Stevie Wonder arrivò qui da noi e si infilò subito nella sala di incisione. Aveva forse 10 anni e mezzo. Iniziò a suonare il pianoforte, poi passò alla batteria e picchiava duro sui tamburi. Cantò anche, ma a quel tempo non aveva una gran voce. La cambiò dopo, nell'adolescenza. Fu quando si mise a suonare l'armonica che ci impressionò davvero. Nella sala di registrazione della Motown c'è un giovane uomo che sta osservando con interesse il piccolo Stevie. Lui stesso è un cantante gospel, autore di canzoni, produttore, e si rende immediatamente conto che si trova di fronte a una vera meraviglia vivente. Quel ragazzino esile, le cui movenze tipiche dei non vedenti ricordano effettivamente quelle del mitico Ray Charles, ha delle evidenti doti musicali. Anche se è solo un bambino, decide all'istante che vuole produrlo. Il nome di quel giovane uomo, il primo magnifico destino nella vita e nella carriera di Stevie Wonder, è Clarence Paul. Dopo alcune giornate passate in compagnia del ragazzo, dopo che tutti i musicisti, i fonici, gli autori non fanno che ripetergli «Ma è una meraviglia!», Clarence Paul si rivolge al ragazzo con un sorriso smagliante. «Ho trovato il nome che fa per te. Cleveland Morris non va bene, non ha nessuna magia. Visto che tutti mi dicono che sei una meraviglia, ti chiamerai Little Stevie Wonder». Clarence Paul diventa a tutti gli effetti il mentore di Stevie Wonder. Inizia subito a comporre per lui alcune canzoni che possano adattarsi alla sua voce, tanto giovane e non ancora formata, ma soprattutto che possano mettere in risalto le sue doti di armonicista. Dopo alcuni mesi di lavoro in sala di registrazione, viene rilasciato il primo disco, che diventa immediatamente una grandissima hit, Fingertips. Nel giugno del 1962, durante un tour di concerti della Motown al Regal Theater di Chicago, il piccolo Stevie canta per la prima volta Fingertips dal vivo, stupendo tutti per le sue incredibili doti non solo di musicista, ma anche di showman. Hey! Stevie non è particolarmente emozionato. In fondo, anche se stasera sta cantando davanti a un pubblico ed è la prima volta che lo fa, cosa cambia rispetto a tutte le prove che ha fatto in sala di registrazione? E che cosa cambia rispetto a casa sua? Anche lì c'era un sacco di gente ad ascoltarlo. Forse però Stevie non si rende conto della moltitudine di persone che si trovano di fronte a lui, al Regal Theater. Non può vederli e solo quando esclama «Dite tutti yeah!» percepisce veramente la portata dell'evento a cui sta partecipando. Fingertips, che vanta tra i musicisti che la registrano in studio con Clarence Paul anche un percussionista d'eccellenza, l'allora giovanissimo Marvin Gaye, ha un primato storico. Raggiungendo la prima posizione nella classifica delle hit di Rhythm and Blues, non solo lancia Stevie Wonder nell'Olimpo delle star della Motown, ma lo rende il più giovane artista della storia ad avere raggiunto quella posizione. Naturalmente c'è anche l'altro risvolto della medaglia. Ah, non posso certo dire di aver avuto un'infanzia normale. Ho incominciato a 11 anni e a 13 sono stato il primo bambino ad avere il primo posto nella classifica R&B degli adulti. I miei giochi sono stati gli strumenti musicali e i miei compagni musicisti. Con Clarence Paul, Stevie realizza diverse canzoni, ma anche da solo la sua vena creativa è straordinaria. Mentre frequenta la Michigan School per ciechi di Larsand, Stevie si innamora di una ragazzina che si chiama Marsha, per la quale scrive una canzone d'amore bellissima. È il 1966. Stevie ha solo 16 anni, ma le sue doti di compositore sono strabilianti. Il titolo originale della canzone è Oh My Marsha, ma poi succede qualcosa per cui il giovane artista deve cambiare il titolo. That song really... Sì, in effetti la canzone si intitolava Oh My Marsha. Oh My Marsha. Oh My Marsha. Ma poi io e Marsha abbiamo rotto, insomma. Così il paroliere cambiò il nome in un più generico My Cherie Amor. Stevie Wonder è ormai diventato senza dubbio una star. Ha molte sue canzoni in classifica, il pubblico lo adora e la sua creatività non conosce limiti. Ma nonostante questo non è soddisfatto. Essere nero negli anni 70 fa di lui un artista destinato a un pubblico limitato, quello che segue principalmente il rhythm and blues, il soul. Mentre lui è convinto di poter spaziare in altri generi di più ampio respiro, principalmente nel pop, e sente di dover fare qualcosa per allargare i propri orizzonti. Così, nel 1971, raggiunta la maggiore età, scioglie momentaneamente il suo contratto di esclusiva con la Motown, con la quale rinegozierà un nuovo accordo l'anno dopo, e organizza qualcosa di strabiliante. Il Rolling Stones American Tour del 1972 viene definito da molti critici e storici musicali come una parte significativa della leggenda del rock and roll. Una serie di concerti tenuti fra giugno e luglio negli Stati Uniti e in Canada che rappresentano una pietra miliare non solo nella storia della band, ma più in generale un grandioso evento globale. Mick Jagger è ormai una leggenda, fa parte del jet set ed è circondato da un alone di popolarità e glamour che rende speciale tutto quanto lo riguardi. Questi concerti hanno un supporter davvero speciale che li apre e spesso li chiude insieme alla band. Il suo nome è Stevie Wonder. Non potrò mai dimenticare la sensazione di stare sul palco con i Rolling Stones. Si respirava il rock puro, era qualcosa di molto diverso dai concerti che organizzava la Motown. Lì la gente cantava tutte le canzoni per intero, partecipava in maniera attiva al concerto, saliva sul palco, ti faceva sentire veramente una star. La mitica formazione dei Rolling Stones rappresenta sicuramente il secondo magnifico destino nella carriera di Stevie Wonder. La visibilità che il tour gli garantisce lo trasforma da cantante di rhythm and blues in qualcosa di molto più ampio e fa conoscere la sua musica al vastissimo pubblico del rock. I concerti del 1972 e il pezzo che Stevie compone nello stesso periodo, Superstition, che vince ben due Grammy Award, lo portano alla consacrazione assoluta a soli 22 anni. Superstition è un successo immenso e rappresenta anche un pezzo storico, perché Stevie Wonder vi fa largo uso del clavinet, il famoso strumento a tastiera ideato da Ernst Zacharias e costruito dalla Horner, il cui suono, molto simile a quello di una chitarra elettrica, diventa una sorta di simbolo della musica funk, rock e disco di quegli anni. Superstition mi venne in mente suonando il tamburo. Poi la suonai su un clavinet, anzi, presi un secondo clavinet e la suonai su due tastiere diverse. Fu una scossa. L'album Talking Book, che contiene Superstition, diventa immediatamente un successo strepitoso e ha il merito di sfatare il luogo comune secondo il quale un artista nero di rhythm and blues non sia in grado di creare musica che possa essere apprezzata dagli amanti del rock. Purtroppo accade un fatto a dir poco grottesco. Durham, Carolina del Nord, 6 agosto 1973. Dopo un concerto durante il tour promozionale dell'album, sull'auto nella quale Stevie viaggia con suo fratello Kevin e alcuni membri del suo staff, piomba un tronco di albero caduto da un tir che la precede. È un terribile incidente che causa a Stevie un grave trauma cranico e la perdita parziale del senso dell'odorato e del gusto. Ci sarebbe di che demoralizzarsi. Stevie è già cieco e queste altre menomazioni proprio non gli ci volevano. Ma lui non sembra conoscere la parola depressione, anzi, mentre si trova ancora in ospedale, ha anche una grande soddisfazione. L'album Talking Book contiene infatti un'altra canzone mitica di Stevie, You Are the Sunshine of My Life, che gli procura un premio ambitissimo per un artista nero di rhythm and blues, il Grammy Award per la migliore interpretazione maschile pop nel 1974, che lui vince battendo addirittura Elton John e Paul Simon. The nominees are... I love being aggressive. The people ask me how... Harry Como for And I Love You So. Jim Croce for Bad Bad Leroy Brown. Elton John for Daniel. And Paul Simon for There Goes Rhyme and Simon. Stevie Wonder for You Are the Sunshine of My Life. And the winner is You Are the Sunshine of My Life, Stevie Wonder. I can only thank my maker. God, thank you so very much. Non posso fare altro che ringraziare il mio creatore. Signore, grazie, grazie infinite. Accetto questo premio in memoria di Jim Croce, un uomo di grande talento. Ringrazio mio fratello Calvin che mi ha salvato la vita quest'estate in quel terribile incidente che abbiamo avuto. Grazie. Grazie a tutti. Thank you. Higher Ground è una delle canzoni di maggior successo del protagonista della puntata dei Magnifici Destini di oggi. Colui che viene definito dal suo primo mentore e produttore Clarence Paul l'ottava meraviglia del mondo, il mitico Stevie Wonder. Bambino prodigio della Motown, primo ragazzino della storia che a soli 13 anni scala le classifiche R&B, vincitore di ben 3 Grammy Award nel 74 a soli 23 anni, con Superstition e You Are the Sunshine of My Life, Stevie Wonder duplica anche con Higher Ground e il relativo album Inner Visions, aggiudicandosi altri 3 Grammy, tra i quali l'album dell'anno. Un premio, il Grammy, al quale Stevie Wonder nella sua lunga carriera si è ormai abituato. Attualmente ne ha vinti la bellezza di 22, divenendo il più premiato solo artist nella storia. Berry Gordy, patron della Motown, che conosce Stevie ormai da oltre 50 anni, lo descrive così. Stevie ha una voce unica, ma anche un'anima unica che batte quella voce. E qualsiasi canzone canti riesce a trasmettere l'amore, il sentimento. Questa è una cosa. Un'altra cosa è che le sue strutture melodiche sono uniche, e questo gli deriva dal creare gli accordi al piano. Sono pochissime le persone che riescono a scrivere musica facendo gli accordi al pianoforte. Sicuramente alle innate doti musicali Stevie Wonder aggiunge le sue esperienze personali. L'avere rischiato di morire nel terribile incidente stradale di cui è vittima nel 1973 cambia la sua visuale della vita in maniera radicale. Io penso che Dio mi abbia fatto picchiare la testa per farmi comprendere meglio il senso delle cose. Certo, sono molto grato di essere ancora vivo, sono fortunato e ringrazio per questo tutti i giorni, ma da quel momento la mia vita è cambiata e ora so quello per cui vale la pena di lottare veramente. L'incidente di Durham rappresenta uno spartiacque nella vita di Stevie Wonder. Nulla sarà più come prima per lui. Da quel momento tutto quello che fa ha una finalità umanitaria. Sta addirittura pensando di abbandonare la sua carriera artistica per dedicarsi completamente alla lotta contro la discriminazione razziale. Pensa a un progetto per la riabilitazione dei bambini handicappati che sta finanziando. Ma per fortuna i dirigenti della Motown e tutti i suoi parenti e amici lo convincono che la sua influenza come star può fare molto bene alle cause che gli stanno a cuore. L'album successivo che rilascia con Motown il 28 settembre 1976, Songs in the Key of Life, è qualcosa di assolutamente incredibile, una pietra miliare nella storia della musica mondiale. Anche perché Stevie ha una motivazione in più questa volta. È diventato papà di Aisha e le dedica una delle sue canzoni più belle. Isn't she lovely? Non è bellissima? Si domanda Stevie parlando della sua bambina appena nata. Lui, che non ha mai considerato la cecità un handicap, che ha sempre praticato tutti gli sport, condotto una vita assolutamente normale, che ha perfino dichiarato in più di una occasione di non condividere l'accanimento con il quale la madre aveva sempre cercato di curarlo, lui, per la prima volta dopo la nascita della figlia Aisha, ha un ripensamento. Se potessi vedere almeno una volta... Vorrei poter vedere i visi dei miei cari, la mia famiglia, ma soprattutto vorrei vedere mia figlia, Aisha. Songs in the Key of Life, considerato il culmine del periodo classico della carriera di Stevie Wonder, è un album doppio, un progetto estremamente ambizioso che conquista la critica e il pubblico di tutto il mondo. Stevie si aggiudica altri due Grammy Award con questo progetto che viene nominato disco di diamante e che solo negli Stati Uniti vende oltre 10 milioni di copie. Da questo album vengono estratti una serie di singoli che raggiungono anch'essi il top delle classifiche, come I Wish, ripresa nel 1999 da Will Smith nel film Wild Wild West. Sempre nello stesso album, Stevie Wonder inserisce una canzone composta nel 1974, in occasione della morte di uno dei suoi idoli, il grandissimo Duke Ellington. Intervistato sul perché di questa dedica così particolare, Stevie dimostra ancora una volta tutto il suo amore per la musica. Ho voluto dedicargli questa canzone perché non ci si dimenticasse di lui. Troppo spesso le persone quando muoiono vengono dimenticate, scordate, ma lui ha fatto talmente tanto per tutti noi musicisti che non è giusto dimenticarlo. Ho voluto dimostrare il mio apprezzamento per Duke Ellington alla mia maniera. Sul volgere del nuovo decennio, i fatidici anni Ottanta, che rappresentano per molti performer neri un periodo di stasi dovuto a una naturale evoluzione dei gusti e del mercato musicale, Stevie Wonder rappresenta un faro luminoso. Le sue canzoni continuano incessantemente ad essere delle hit e lui si concede il lusso di una serie di album che riuniscono tutti i suoi maggiori successi e che vengono spesso definiti dai critici tra i prodotti discografici più influenti nella storia della musica contemporanea. Stevie sente di aver fatto bene a dar retta ai suoi amici, parenti e collaboratori che gli hanno sconsigliato di abbandonare la carriera di cantante. dalla sua posizione di star acclamata e idolatrata da milioni di fan in tutto il mondo, può fare molto per le cause a cui si dedica oramai da tempo. E fra le varie, di certo quella che gli sta più a cuore è proprio quella legata all'istituzione del Martin Luther King Day, la festa nazionale in ricordo del reverendo King e delle sue azioni contro ogni forma di discriminazione razziale. A lato delle sue azioni umanitarie, Stevie è però pur sempre un grande musicista con le sue passioni, tra le quali c'è il grande Bob Marley, con cui ha la fortuna di collaborare in un paio di occasioni. È a lui che dedica una canzone che diventa immediatamente uno standard mondiale, Master Blaster. Nonostante il grandissimo successo, nonostante il fatto che sia considerato una delle star viventi più grandi della musica contemporanea, Stevie Wonder rimane sempre con i piedi ben piantati per terra e non dimentica mai nemmeno per un minuto il suo scopo principale, quello che oramai da anni si prefigge, lottare con tutte le sue forze contro i soprusi, specialmente quelli legati al razzismo, che anche lui ha dovuto subire da bambino. La prima volta che ho avuto a che fare con il razzismo fu quando morì mia nonna. Viveva al sud. Andammo al suo funerale e mi capitò che alcuni ragazzini bianchi dicessero a me e ai miei fratelli «Negri, negri, negri». Io sinceramente non capivo nemmeno di che cosa stessero parlando allora, perché a Detroit non mi era mai capitato. Poi però l'ho imparato. Lo impara a sue spese, quando da uomo di colore qual è non può dormire negli alberghi in cui si tengono i suoi stessi recital, perché riservati ai soli bianchi. Una realtà talmente assurda che è difficile da credersi, per questo è molto felice quando nel 1982 riceve una telefonata. È una grande sorpresa perché si tratta niente meno dello staff di Paul McCartney. Paul ha scritto una canzone che vorrebbe cantare con lui e quando gli viene detto il soggetto della canzone, inizialmente Stevie fa fatica a capire il perché. Paul parla della tastiera del pianoforte, ma poi il titolo fa comprendere a Stevie che in realtà il brano ha un intento antirazzista ben preciso e capisce perché McCartney lo ha coinvolto. Quella canzone dell'ex Beatles si intitola Ebony and Ivory, Ebano e Avorio. Nel 2010 i due artisti cantano insieme questo grandissimo successo alla Casa Bianca davanti al presidente Obama. Una persona che lavorava con me alla Motown mi disse di questa canzone e del fatto che Paul volesse cantarla con me. E io dissi, beh, portatemela. Poi mi dissero il titolo della canzone. E allora capii e fu una gioia immensa realizzarla. È stato un piacere enorme, Paul, registrare questa canzone con te. E anche guidare la macchina e pilotare gli aerei. Oggi i Magnifici Destini sta viaggiando con voi nel magico mondo di uno dei più grandi e influenti artisti della musica internazionale, la cui lunga carriera dura ormai da oltre 50 anni, regalando a tutti noi successi straordinari. Il suo nome è Stevie Wonder. Bambino prodigio, già apprezzato interprete e musicista rhythm and blues a soli 13 anni, Stevie conquista il successo mondiale con le sue hit rock e pop, valicando qualsiasi confine di genere. Vincitore di numerosissimi Grammy Award, Stevie Wonder riceve nel 1983 un'offerta che è destinata ad allargare il suo raggio d'azione, portandolo per la prima volta a cimentarsi nel campo cinematografico. L'occasione arriva con il progetto di un grandissimo regista, sicuramente uno dei più famosi e apprezzati di tutti i tempi, Francis Ford Coppola. Decisi di realizzare il film The Outsiders dopo aver ricevuto una lettera da una scolaresca che mi parlava del libro di Hinton. È stato un progetto difficile perché non mi sono trovato d'accordo con il produttore che lo ha ritenuto troppo lungo. Ho dovuto fare numerosi tagli e forse alla fine il film ne ha risentito. Ma di certo è piaciuto molto ai giovani. E poi quel film ha avuto una canzone strepitosa grazie alla collaborazione di Stevie Wonder. The Outsiders è noto per avere nel suo cast un gruppo di giovanissimi attori destinati a diventare in breve tempo grandi star. Tom Cruise, Matt Dillon, Patrick Swayze e Diane Lane. E sicuramente la canzone Stay Gold, cantata e suonata magistralmente da Stevie Wonder, rappresenta un meraviglioso accompagnamento per questi interpreti che stanno muovendo i loro primi passi nel mondo del cinema. Upon the moment long ago, one breath away and there you will be, so young and carefree. Again you will see that place in time, so go. L'incontro fra Stevie Wonder e Francis Ford Coppola è sicuramente un magnifico destino nella già sfolgorante carriera del cantante. Un nuovo mondo si apre di fronte a Stevie, che come tutti gli artisti ha sempre bisogno di nuovi stimoli e sfide da superare. E anche il cinema, così come il mondo della musica, è fonte di opportunità e di grandi soddisfazioni per il nostro ex bambino prodigio. Cerco sempre di creare musiche positive e l'ho fatto anche nel caso del cinema. Quando penso a una melodia, di solito la registro subito, ci mettono più di 20 minuti, e poi me la riascolto, la adatto alla scena, e prima o poi viene buona. Scrivere musiche per un film si è rivelato molto stimolante, perché se c'è una storia da commentare diventa divertente, molto divertente. Stevie Wonder sta affrontando uno dei momenti più creativi e piacevoli della sua carriera, la realizzazione di un'intera colonna sonora per un film che diventa un vero e proprio cult degli anni Ottanta, La Signora in Rosso, di Gene Wilder, con la bellissima Kelly LeBrock. The Woman in Red non è solo un grandissimo successo discografico e una nuova esaltante avventura per Stevie Wonder, ma rappresenta un caposaldo della sua incredibile carriera, grazie a una canzone mito. No new. I Just Called to Say I Love You rappresenta forse il più grande fra i successi di Stevie Wonder, la sua canzone manifesto, e di sicuro quella che gli regala il premio più ambito, l'Oscar per la migliore canzone originale nel 1984, battendo il bellissimo brano di Phil Collins Against All Odds e la super orecchiabile Ghostbusters. In quell'occasione, a un giornalista che gli chiede se sia la sua canzone preferita, Stevie risponde con una citazione inattesa. La mia preferita tra le canzoni che ho scritto. Vi rispondo con le parole di Duke Ellington. La mia canzone preferita è quella che non ho ancora scritto. Perché ci sono talmente tanti stimoli, talmente tante cose che possono toccarci, influenzare le nostre scelte, la nostra creatività, anche il nostro gusto, che non penso possa esistere una mia canzone preferita. La mia preferita è ancora dentro di me. Sicuramente una delle sue canzoni preferite è in ogni caso quella che gli viene proposta nel 1985 da un gruppo dei suoi amici più cari, scritta da Michael Jackson e Lionel Richie e prodotta da Quincy Jones. La canzone è bellissima, ma è il suo intento umanitario che più di ogni altra cosa spinge Stevie Wonder a partecipare al progetto che vede riuniti in quell'occasione tutti gli artisti più famosi del mondo musicale. Il progetto è USA for Africa e la canzone è la famosissima We Are the World. Oltre 20 milioni di copie vendute di questo meraviglioso disco, i cui introiti vengono devoluti interamente a favore delle popolazioni africane povere e dei paesi bisognosi del continente nero, fanno comprendere come azioni di questo genere possono fare molto più di tante campagne di raccolta fondi. Ecco perché solo un anno dopo Stevie Wonder è di nuovo in prima linea con un altro grandioso progetto umanitario in favore della lotta contro la dilagante malattia del secolo, l'AIDS. That's What Friends Are For, scritta da Burt Bacharach e cantata originariamente da Rod Stewart, viene registrata da Stevie con Diane Warwick, Elton John e Gladys Knight. Ed è un altro grandissimo successo che porta oltre 3 milioni di dollari al Fondo Americano per la Ricerca contro l'AIDS. All'inizio della canzone è riconoscibilissima l'armonica del grande Stevie Wonder. And I never thought I'd be. I'm glad I got the chance to say carriera di Stevie Wonder non conosce crisi. Gli anni passano, ma lui resta sempre lo stesso meraviglioso artista, oltre che uomo di grandissima umanità, sempre pronto per le cause di solidarietà. E quando il 12 gennaio del 2010 la terra trema paurosamente ad Haiti, causando danni spaventosi, Stevie è di nuovo presente. Dopo solo 10 giorni partecipa al Telethon di beneficenza Hope for Haiti Now, organizzato dall'attore George Clooney, durante il quale canta la meravigliosa Bridge Over Troubled Water di Paul Simon. When will there be a time to love? We make time to debate religion, passing bills and building prisons, building fortunes and passing judgments.